Inter Marata. Sanctus, Sanctus Dominus. Vergaris vice mate aspice. Sanctus, Sanctus Dominus. Ciao a tutti! Ciao a tutti amici di Radio Cage e amiche di Radio Cage. E amiche di Radio Cage soprattutto, siamo di nuovo qui, è una gelida giornata di gennaio. Sì, e noi siamo negli studi di Radio Cage, caldo, nel centro di Livorno, al caldo naturalmente. Io, Gab e il come? Magnifico Fede. Non sei... No, io sono Vince, ok. Tu sei Gab e poi abbiamo sì, Fede, sì, come sempre, alla parte tecnica. Tanta Fede, come sempre, in questa trasmissione. Stranamente. Sì. Ma che facciamo? Che facciamo? Ricordiamo subito qualcosa legato alla giornata di oggi, no? Sì. O partiamo con i contatti. Partiamo con i nostri contatti. Dai, testacrocesshow@gmail.com, la nostra email. Lo Skype è testacrocesshow. E il nostro blog testacrocesshow.blogspot.com. Fra l'altro c'è una grossa novità, da domani potrete trovare i podcast delle prime 5 puntate. Incredibile. Sul nostro blog. Richiestissimi tra l'altro. Dunque è abbastanza semplice, ci sarà una barra in basso in fondo alla schermata e cliccate, c'è scritto cliccare per aprire podcast, penso non avrete alcun problema ad ascoltarli. Benissimo, vi chiediamo scusa per il piccolo ritardo, ma insomma ogni tanto abbiamo delle discussioni con entità soprannaturali che ci vogliono impedire di andare in onda, vero? Certamente, di farci ascoltare anche in differita. Comunque abbiamo risolto anche questo problema. Dunque, sì. Diciamo qualcosina sulla giornata di oggi. Allora, come sempre la rubrica di l'almanacco di Radio Cage. Sì, l'almanacco, giusto, l'almanacco di Radio Cage. Allora, ricordiamo la scomparsa nel 1990, quest'oggi, di Bhagwan Sri Rajneesh, il guru indiano molto noto. Sì, io lo conosco con un altro nome. con un nome d'arte. Beh, allora lascio dire a te. Esatto, Osho. Osho, è proprio lui, no? È proprio lui, esattamente lui. Per cui abbiamo letto anche una citazione molto bella, sì, per sì, introdurre una domanda di qualche mese fa. Personaggio molto discusso che andava in giro su auto lussuose, eccetera, eccetera. Esatto, per una fase della sua vita, sì, e per un'altra fase era un po' più morigerato, sì, diciamo. Poi ricordiamo anche la scomparsa del primo ministro Bettino Craxi. Senti là. Che appunto nel 2000, vabbè, non diciamo. Cosa è successo? Ma nel 2000 si ricongiungeva con la luce. Capisco. Sì, sì, ma non so. Probabilmente sì. Sì. O forse penombra, diciamo. Penombra, luce, sì, quello ombre, che sia, io sai, non sono esperto di al di là. Vabbè, non pronunciamoci, ecco. Aspetta a noi la sentenza. Infatti. Tu e ne altre? Certo. Nacquero il 19 gennaio invece il filosofo Comte, Paul Cézanne, Steno, Janis Joplin e celebrano il compleanno oggi Dolly Parton, attrice e cantante country, e il bravo attore Alessandro Haber. Ma poi c'è un'altra ricorrenza, sì, diciamo, il 19 gennaio. Un attimo. Cioè, non vorrei evitare questa citazione, Edgar Allan Poe, non esatto, proprio quella. Ah, ok, per perdonami. Proprio quella, Edgar Allan Poe nacque il 19 gennaio di un anno imprecisato. E c'è, tra l'altro, c'è un 1809. Grazie, Gab. C'è una notizia che io non conoscevo assolutamente. Pare che un tizio, un misterioso custode della tomba di Poe, soprannominato il Poe Toaster, lasciasse dal 1940, insomma dagli anni 40, una rosa e una bottiglia di cognac sulla tomba di Edgar Allan Poe, per ricordarlo appunto ogni 19 gennaio. E ultimamente sono state organizzate proprio delle veglie la notte tra 18 e 19 per svelare questo mistero, però pare che da 2 anni questo visitatore non si faccia vedere e quella di stanotte, appunto della notte appena passata, potrebbe essere l'ultima. Infatti Jeff Jerome, curatore della casa di Poe e del museo, ha detto che dopo questa nottata annuncerà ufficialmente la fine della tradizione. Cioè hanno avuto 200 anni per scoprire chi era e vanno a farlo proprio quando ha smesso di... No, come 200? No, dal 40, degli anni del Novecento. Pensavo fosse sì, una tradizione iniziata... No, comunque era sui 150 anni, vabbè. No, pensavo avessero cominciato subito dalla morte. No. Comunque appunto non si è mai scoperto chi fosse o chi fossero questi questi custodi. Chi beveva, chi beveva il cognac, infatti. E poi da ultimo ricordo anche Gustav Meyrink, la nascita nel 1868, scrittore di successo, esoterista, ricordiamo alcuni libri, Il Golem, La faccia verde, La notte di Valpurga, Il Domenicano bianco e L'angelo della finestra occidentale. Inoltre l'italiano Paolo Borsellino, nasceva nel 1940, ricordiamo per il suo eroismo. E direi che passiamo a un po' di musica. Ma prima facciamo gli auguri anche a chi fa l'onomastico oggi. È San Mario, Marta, Abaco. Dai, che nomi banali, però. Audiface, ecco. Bastiano, Catello, Germanico, Launomaro, Macario l'Alessandrino, Remigio, Arsenio di Corfù e Faustina di Como. Beh, si è andato migliorando sul finale. È vero. Partito molto debole questa volta. Sì, con Mario, senza offesa per chi si chiama Mario. No, tanti auguri a tutti Mario, sì. E a tutti le Faustine di Como, eccetera, eccetera. Sì, dai, diamo una bella scarica musicale a questa puntata e ci ascoltiamo Who Fingered Rock and Roll dei Corner Shop. Slow powers, you fingered rock and roll. Bentornati in studio. E stiamo per riprendere il nostro concorsone esistenziale. Ma prima qualche notizia flash. Sì. Vai tu, Gab. Sì, vado io. Allora, se vi ricordate, la volta scorsa vi avevo consigliato di sintonizzarvi su thesexexperiment.com venerdì scorso, perché c'era il pastore Ed Young con sua moglie su un letto sopra la loro chiesa negli Stati Uniti, e avrebbero fatto delle discussioni sul matrimonio, sul sesso e sul rapporto tra il sesso e la chiesa, il ritorno del sesso nella chiesa. Ciascuno nel suo letto fa quello che vuole, no? È proprio il caso di dirlo. Certamente, non so se l'avete seguito, io personalmente no, però, però ho saputo che c'è stato un problemino, che essendo sopra il tetto c'è una luce molto forte e il pastore ha riportato un danno all'occhio durante la... Durante è diventato cieco. Non proprio. Però insomma ha avuto un problema all'occhio che l'ha costretto a interrompere qualche ora prima lo streaming live, che però ci segnala The Christian Post. Sì. È continuato comunque per tutte le 24 ore facendo vedere il tetto vuoto. Con dei volontari che hanno preso il posto del pastore. Vi ricordo che nel letto c'era anche la fantastico. Moglie. mi immagino c'era stato una fila, un crocicchio, sì. per prendere il posto del pastore. Bene, e invece andiamo in Iran, dove la polizia morale iraniana ha imposto da alcune settimane la messa al bando della nota bambola Barbie, colpevole, secondo il regime degli Ayatollah, di promuovere la decadenza culturale e l'influenza occidentale. Diversi negozianti continuano a vendere la bambola proibita, debitamente nascosta negli scaffali, vista la grande richiesta. Quindi una Barbie clandestina. Di Barbie. Esatto. Quindi, d'altronde, la versione islamicamente corretta della Barbie, chiamata Sara, affiancata dal compagno Dara, in abiti tradizionali e col velo, non ha avuto un grande successo. I bambini non volevano Sara. Ma strano, però, Ma non lo so. Ma è sempre stato uno insomma, dei punti forti della Mattel, fare Barbie internazionali. Sì, in effetti. Sì. Quindi pensavo potesse, tipo Barbie operaio, Barbie notaio. Sì. Barbie presidente del consiglio. Esatto. Queste cose qua. Bene. Direi che passiamo alla domandona esistenziale. Domandona di oggi, di questa puntata. Allora, intanto ricordiamo il concorso. È cominciato la scorsa settimana. C'è stata già una domanda. La domanda è a chi è il diavolo? Sì, e voi. Abbiamo anche una risposta che vi andremo a leggere dopo che avrò posto quest'altra domanda. Sì. Ma introduco con un pezzo di Martin Luther King, che per l'appunto nasceva il 15 gennaio, quindi pochi giorni fa, e da un suo discorso vi riporto il seguente. Sentiamo. Ai nostri più accaniti oppositori noi diciamo: Noi faremo fronte alla vostra capacità di infliggere sofferenze con la nostra capacità di sopportare le sofferenze. Andremo incontro alla vostra forza fisica con la nostra forza d'animo. Fateci quello che volete e noi continueremo ad amarvi. Noi non possiamo in buona coscienza obbedire alle vostre leggi ingiuste, perché la non cooperazione col male è un obbligo morale, non meno della cooperazione col bene. Metteteci in prigione e noi vi ameremo ancora. Lanciate bombe sulle nostre case e minacciate i nostri figli e noi vi ameremo ancora. Mandate i vostri incappucciati sicari nelle nostre case nella notte, batteteci e lasciateci mezzi morti e noi vi ameremo ancora. Ma siate sicuri che noi vi vinceremo con la nostra capacità di soffrire. Un giorno noi conquisteremo la libertà, ma non solo per noi stessi. Faremo talmente appello al vostro cuore e alla vostra coscienza che alla lunga conquisteremo voi e la nostra vittoria sarà una duplice vittoria. L'amore è il potere più duraturo che vi sia al mondo, tratto dalla forza di amare. Dunque, la mia domanda quindi è: qual è il potere più duraturo al mondo? Siete d'accordo magari con Martin Luther King che sia l'amore, oppure diteci la vostra opinione? Domanda molto interessante, devo dire. Vabbè, comunque belle parole, no? Ci sarebbe molto da discutere su, certo, su questo. Certo, certo, discutiamone. No, no? Facciamolo eventualmente nella puntata in cui rivedremo tutte le domande e daremo il premio. Giusto, giusto, una buona idea. A proposito, e a proposito leggiamo di premio, la domanda di... No, la risposta alla domanda chi è il diavolo, che ci è arrivata giusto a inizio trasmissione. Dunque, Francesco da Torino ci dice: il diavolo? Ma è evidente, cari signori, si tratta del famigerato presidente della Siria, al secolo Bashar al-Assad. L'accurato studio del cui nome, alla luce della notissima e millenaria cabala ebraica, che converte le lettere del nome stesso in numeri, porta alla conclusione che il nome stesso sia equivalente alla sesta cifra decimale, zero escluso, ripetuta 3 volte. Non lo scrivo perché porta sfiga, è una parafrasi, penso avete capito. Chiaro emblema della presenza nel personaggio del Satanasso. Certo. Ad Maiora. Sì. Ok, grazie, ecco, Francesco. Per ora devo dire abbiamo avuto 2 risposte su Satana e sono tutte e 2 esseri viventi e sì, sì. L'altro è Justin Bieber. Potremmo fare delle lezioni, chi è il diavolo, nel senso chi volete votare, sì. Come... Anche nelle prossime elezioni della Siria votate Justin Bieber. Ecco, esatto, il messaggio è quello. Va bene. Dunque, vogliamo ricordiamo, dire... ecco. Anzi no, non ricordiamo, abbiamo... sveliamo. No, sveliamo, infatti, avevamo promesso di dire in questa puntata quale sarà il premio del concorso esistenziale nel prossimo giro, in questo giro. Dunque, questa volta non potete venire a ritirarlo in obe, esatto. È uno spirito, perché è un premio concreto. Più che concreto, direi. Di cosa si tratta? Si tratta di un frutto, sì. Di un pomo. Un pomo, sì. Sì. Un pomo della discordia. Molto, certo, della senso. Discordia, esatto. Siamo risaliti addirittura a circa 4.400 anni fa. Sì, circa, anche insomma. No, anche un po' di più. Bah, sai, ci sono vari calcoli. Circa 6.000, sì, se c'è non chi era, dice 6.000, secondo il calendario ebraico. C'è chi dice 6.000, c'è chi dice 4.000, insomma. Beh, comunque non più di 6.000, perché il mondo non è stato creato, esatto, più di 6.000, esatto, anni fa, infatti. Massimo 6.000 anni fa. Ecco. Parliamo della mela. La mela. Della mela, la famosa mela, quella con la M Eva. Maiuscola, esatto. Non una delle mele di Eva, ma no, la mela, esatto, di Eva. La mela ci di siamo. Eva. Quindi con naturalmente quello che ne rimane, ovviamente. Cioè, certamente, sono passati migliaia di anni. E quindi... Come ben sapete, non mantengono tutte le loro proprietà, i frutti, dopo 4.000 anni, tendono, sì, a perdere un po' di gusto. Appena appena. E anche un po' di consistenza. Però miracolosamente, si fa un po' più solida. Esatto, miracolosamente questa si è fossilizzata, e senza naturalmente le parti che erano state morsicate. Esatto, esatto. E pensate, cercavamo di venderla su eBay, ma invece poi abbiamo pensato, ma regaliamola invece a esatto, un concorso. E abbiamo anche un premio alternativo nel, esatto, caso in cui dovessero finire, sì, perché abbiamo ci sono alcuni esemplari di mela, perché, sì, cioè quella morsicata, quelle non morsicate, comunque se dovessero finire per qualche motivo, non dovessero essere disponibili, in cambio vi daremo un iPod. Sappiamo, ecco, che è molto peggio, perché insomma la preziosità della mela di Eva è tutt'altra cosa, sì, però cioè, una mela morsicata c'è sempre, però non è la stessa cosa, non è la stessa cosa assolutamente. E comunque sì, se dovessero finire le mele di Eva, vi daremo un iPod. Benissimo, ciancio alle bande, fateci sapere la vostra risposta alla domanda, al domandone, da qui a qualche settimana, avete tempo. Sì, e poi, e poi ricordiamo, insomma, come al solito, quattro domande. Quattro o cinque, insomma, vediamo. O giù di lì, e poi la premiazione. Esatto. Ma direi di andare con un pezzo. Sì. Abbiamo detto, sì, non parliamo, non potete venire a ritirare questo premio in Obe, però questa canzone parla un po' di Obe. Si intitola Silent Lucidity, dei Queensryche, cioè sogni lucidi, Obe, sì, queste cose qua. Ci siamo. Hush now, don't you cry. Wipe away the teardrop from your eye. You're lying safe in bed. It was all a bad dream spinning in your head. Rieccoci. Bentornati amici di Radio Cage. Allora, vi do subito una notizia. Se vi ricordate, avevamo un problema concettuale sulla Finlandia e sulla, sì, la confessione religiosa. Sì. Ecco, da sito dell'UAR ho trovato che il numero di cittadini attualmente senza alcuna confessione religiosa sono circa 1 milione. Ha superato 1 milione da poco. E su una popolazione di 5,2 milioni i restanti 4 sono all'80% appartenenti alla chiesa finlandese, che è una chiesa protestante. Quindi diciamo, sì, ci sono tanti atei, però comunque la maggior parte della popolazione effettivamente è atei non credenti, quello che sia, è appartenente alla chiesa protestante, quindi si spiega anche meglio la vendita della Bibbia, che sì, è stato il best seller del 2011. Ma veramente, davvero, una Bibbia norvegese la comprerei anch'io. Tra l'altro la proporzione... Penso che la puoi trovare, sì, librerie online. Probabilmente sì. La proporzione tra l'altro è simile a quella italiana, perché in Italia appunto circa una persona su 6 si dichiara atea, non credente, agnostica, sì, più o meno, e l'80% forse. Quindi forse non è particolarmente, diciamo... No. Però sì, ho anche letto che il numero è raddoppiato degli atei, sì, negli ultimi 20 anni. Ah, quindi ecco, penso che in Italia non ci sia questa progressione. Forse no, ma c'è in diversi paesi comunque, si legge spesso notizie di questo tipo. Dove andremo a finire? Dove andremo a finire, va. Ai posteri o ai postumi l'ardua sentenza. Va bene, e andiamo avanti con le notizie. Sì. Facciamo una rassegna stampa. Allora, nel Regno Unito le scuole perderanno i fondi pubblici se insegnano il creazionismo. Questa è una notizia che ha dato il Guardian il 15 gennaio. Dove, scusa? Regno Unito. Il Ministero dell'Istruzione inglese ha introdotto nuove regole sui finanziamenti pubblici alle scuole, inserendo una clausola per cui il ministro potrà interrompere l'erogazione di denaro pubblico se un istituto scolastico sostiene di insegnare teorie basate su prove che vanno contro l'evidenza scientifica e o storica. Però è una bella conquista, i pastafariani saranno molto contenti, penso. No, al contrario. Sì, cioè, certo, vabbè, certo. Appunto, per Richard Dawkins il provvedimento risponde ai tentativi di gruppi creazionisti di presentare le proprie idee come fatti scientifici. Uno di questi gruppi si chiama significativamente Truth in Science, verità nella scienza. Ecco, quindi sì, questo è veramente uno dei dibattiti più accesi nel mondo della religione. Fateci sapere cosa ne pensate anche voi, ascoltatori, se vi va. Scriveteci un'email, sì, su questa diatriba. Un dibattito che dura da circa 6.000 anni, sì, da quando il mondo... Sì, no, ma adesso è particolarmente acceso proprio per gli aspetti didattici, proprio, no? Sì, a livello delle scuole. Noi dalla nostra portiamo la mela di Eva. Quindi, a prova. Esatto. Rimaniamo in tema di scuola, perché dal 1 luglio 2012, ho letto su Religion Clause, entrerà in vigore a New York il Dignity for All Students Act, che richiede, fra l'altro, alle scuole di inserire nei loro programmi, cito testualmente, il rispetto per altre razze, origini, gruppi etnici, religioni, pratiche religiose, abilità mentali e fisiche, orientamenti sessuali e genere, quindi maschio o femmina in quel senso. Però una recente votazione ha esentato, cioè ha sancito che debbano essere esentate le scuole parrocchiali, cioè scuole di matrice cristiana, e quelle yeshiva, che sono le scuole invece di matrice ebraica. Hanno cercato di essere esentate, perché ovviamente non vogliono insegnare rispetto per altre religioni, certo, suppongo. Certo. Comunque si sono dichiarati, insomma, i rettori di queste scuole soddisfatti dell'esenzione, perché non sembrava giusto, insomma, essere costretti a vincolare il loro programma in questo scolastico in questo modo. Sì. Invece trovo che la Dignity Act è una bella sarebbe una bella cosa. Certo, certo, lo sarebbe. Appunto, il conflitto su questo punto è molto difficile, no? Perché una volta che tu, indipendentemente dalle giustificazioni, no? dai motivi, dalle ragioni che possono esserci, una volta che tu credi per fede, insomma, nel fatto che hai incontrato la verità, no? Sì. Poi è difficile davvero dare uguale dignità a ciò che a ciò in cui credi non essere verità, cioè è difficile ma comunque è molto difficile, è auspicabile, certo. A livello di Stato è giusto, sicuramente, che sia sicuramente quello è il perno, anzi, della laicità dovrebbe essere assolutamente obbligatorio, assolutamente, senza però, esenzioni, però senza dal punto esenzioni. Di vista del credente capisco la contraddittorietà del punto, no? Sì, sì, sì, è comprensibile in effetti, anche se non condivisibile. No, bene, andiamo avanti sì. In Zimbabwe, che ne dici? Andiamo in Zimbabwe, dai. Zim Diaspora, credo sia appunto un sito di informazione dello Zimbabwe. Spero. Ha dato notizia che il 17 gennaio un uomo è stato arrestato perché affermava di essere Dio. Questo era un ex membro della setta di Johann Marange, che sinceramente non ho idea di cosa sia, ma mi informerò. Fatecelo sapere voi eventualmente se siete membri della setta di Johann Marange. Potrebbe essere un argomento di una prossima novità. Assolutamente sì. Quest'uomo si chiama Ananias Maponga, cinquantenne, in questa strada di Harare, che è Cameron Street, invitava le persone che stavano facendo shopping per i loro cavoli ad ascoltare Dio, che sarebbe stato sempre lui. Aveva due discepoli con sé, e questi due discepoli sono Abraham Mucesa, penso, 22enne, nome significativo, sì, esatto, e Farai Tauzen, 20enne, un po' meno significativo. Questi hanno affermato di credere nella parola di Maponga. Maponga appunto ha dichiarato che le persone devono credere in lui, smettere di dare soldi ai sacerdoti e alle altre religioni, perché è lui il Dio di cui vanno predicando. Lui è il salvatore del mondo intero, la salvezza parte dallo Zimbabwe. Okay, ecco, okay, lui si dichiara quindi un Dio, cioè non un nuovo Dio, ma il Dio di cui parlano le altre religioni. Okay, sì, l'unico Dio. Okay. E afferma che la salvezza partirà dallo Zimbabwe, la salvezza del mondo, quella spirituale. Beh, è arrivata ce l'auguriamo che arrivi questa salvezza. Intanto va bene, anche se intanto è stato arrestato comunque. Vabbè, comunque ti ricordo, ti ricordo che per questa accusa fuori stato anche altre persone, sì, più celebri, vabbè, come si dice, ubi maior, no? Minor cessa. Quindi non ho capito, non fa niente. Bene, c'è tempo per un'altra notizia? Un'altra notizia veloce e poi andiamo con la musica. Bene, allora, una notizia veloce, dunque, dal The Guardian sempre. Nonostante la libreria vaticana conti più di 180.000 manoscritti, 1,6 milioni di libri e un archivio segreto occupi 85 chilometri di scaffali, anche il Vaticano utilizza Wikipedia. Ma senti, finché si può lo utilizza. Certo. Infatti ha inviato ai vari giornali recentemente, il 6 gennaio, le biografie di 22 cardinali appena ordinati, facendo copia e incolla dal celebre sito. Si legge ad esempio di Willem Jacobus Eyck, credo sia olandese, è uno di questi cardinali. Testualmente si legge: all'impegno sociale Eyck ha fin dall'inizio unito una forte propensione al conservatorismo, specialmente in materia di aborto ed omosessualità, che ne hanno fatto uno degli uomini religiosi più discussi del paese. Ora immaginatevi il Vaticano che ha utilizzato questa come biografia di uno degli uomini appena ordinati come cardinale. Comunque il portavoce del Vaticano, padre Federico Lombardi, ha sottolineato che le biografie erano state dichiarate chiaramente non ufficiali, sì, e che la decisione di usare Wikipedia è stata dettata dalla fretta. Mm. In ogni caso, l'uso di Wikipedia sembra in linea con l'approvazione di Benedetto XVI del mezzo internet. Sì. Infatti, dopo essere stato criticato nel 2009 perché era rimasto all'oscuro dei fatti riguardanti l'arcivescovo Richard Williamson, sì, che sui, insomma, che i nazisti non avevano usato le camere a gas, aveva scritto il buon Papa che nel futuro avrebbero dovuto dare più attenzione a questo mezzo, a questa fonte di notizie, certo, cioè internet. Ma questo è perché non vogliono dire la verità, cioè che hanno fatto un copying act, cioè un atto di preghiera esatto, del copimismo. Esatto. Hanno subito avallato il copimismo, esatto, di cui abbiamo parlato esatto la settimana scorsa. Ok, diamo un pezzo sì musicale che è anche diamolo un esperimento spirituale in realtà, vi spiegherò dopo, e questo ci introduce la novità assoluta di questa puntata. Sentiamo, dai. Riconoscerete subito il pezzo, quindi non vi dico nient'altro. You know I can be found sitting home all alone. If you can't come around, at least please tell the phone till you are. Pick it up. Don't be cruel. Ooh, too hard, it's true. Rieccoci, avete riconosciuto il pezzo? Era Joan Marange, no? Esatto. Questa voce Zimbabwe. Non è Joan Marange, di cui Fede ci ha mandato qualche informazione. Insomma, vi faremo sapere presto di chi si tratta, insomma, nelle prossime puntate. Ma questo era Elvis Presley. Certamente, certo. Penso l'avessero riconosciuto tutti. Sì, quasi. Sono arrivati milioni di mail dicendo, su Elvis Presley. Ma questo è Elvis. Ah, ok, benissimo. Ma è giusto così. Infatti, Elvis è un fenomeno sociale straordinario. Nato l'8 gennaio 1935 a Tupelo, Mississippi, morto nel 1977, guadagna più da morto che da vivo. La rivista Forbes lo ha chiamato l'uomo più ricco di tutti i cimiteri. Nel 2000 Elvis, diciamo il marchio, l'affare, sì, non saprei sì come dire, ha fruttato, sì, affrontato 35 milioni di dollari, di cui 15 solo in ingressi alla sua casa museo a Graceland, la più visitata d'America dopo la Casa Bianca, con 600.000 pellegrini ogni anno. Nel 1993 è stato pubblicato un francobollo commemorativo, che è il più venduto della storia. Al momento della morte di Elvis erano 170 i suoi impersonatori, cioè imitatori che guadagnano da vivere impersonando Elvis. Nel 2003 il numero è cresciuto a 55.000, nel 2007 a più di 85.000, e una rivista di scienza popolare, The Naked Scientist, esatto, ha calcolato che a questo ritmo di crescita nel 2019 una persona su tre al mondo sarà un impersonatore di Elvis. Forse anche perché a quanto pare un bravo impersonatore può facilmente arrivare a guadagnare più di 150.000 dollari annui. Beh, un business. È un bel motivo per fare è un impersonatore buon motivo di Elvis. Ma che c'entra Elvis con la religione? C'entra, perché stiamo parlando della First Presbyterian Church of Elvis the Divine, che nacque nel 1988, quindi la prima chiesa presbiteriana di Elvis il Divino. Nacque nell'88, appunto, quando il reverendo Mort Farndu, che nome, sì, infatti non è il suo nome, infatti è Marty Rush il suo nome, che comunque anche quello, sì. E poi dal dottor Carl Edwards Ed Carrin, in realtà dottore, in realtà solo autoproclamato tale. Allora, ebbero due separate epifanie del re. Ricordiamo, il re Elvis era detto The King. Il dottore lo vede distribuire noccioline in un volo di ritorno da Las Vegas, mentre il reverendo, durante un ascolto di Don't Be Cruel a radio sul posto di lavoro. Appunto, ecco, il pezzo che abbiamo appena sentito. Quindi siamo molto curiosi di sapere se anche voi avete avuto qualche effetto collaterale un po' spirituale. Sì, qualche visione, sì, di The King. Esatto. Appunto. Nell'aprile 96 i due affissero sul portale della Packer Chapel, il luogo di preghiera della Lehigh University in Bethlehem, Pennsylvania, durante la Elvis Week del campus, i 31 comandamenti della chiesa di Elvis. Si tratta di 31 tra cibi e oggetti che il re The King gradiva particolarmente, che ogni fedele è tenuto ad avere in casa per eventuali visite di Elvis. Perché ricordiamo che, esatto, ricordiamo che c'è un diffusissimo, no? Leggenda, credenza, sì, che urban legend, esatto, direi, che secondo cui Elvis è ancora vivo in qualche parte. Lui e quasi tutti i cantanti morti sì, prematuramente. Esatto, sì. E tra le prescrizioni della chiesa, appunto, Presbyterian Church of Elvis, fare 6 passi al giorno, girarsi verso Las Vegas una volta al giorno, fare un pellegrinaggio a Graceland, combattere l'anti-Elvis, cioè Michael Jackson, e i falsi dei, tra cui ci sono anche Madonna e Wayne Newton. Ma, combattere l'anti-Elvis è uno dei comandamenti? È una delle prescrizioni, no? I comandamenti sono appunto cibi o oggetti che Elvis gradiva particolarmente, sì. Tra cui anche i falsi dei, tra cui Maradona. Beh, sicuramente, naturalmente, mi sembra ovvio. Dunque, in seguito alla fondazione della chiesa, specialmente sul web, nacquero molte diverse chiese di Elvis, tra cui la First Church of Jesus Christ Elvis, secondo cui i fedeli Elvis nacque in realtà a Memphis, dove secondo la storia ufficiale si trasferì a 13 anni con la famiglia e i cui sacerdoti tengono sermoni come l'hot dog, il cibo più perfetto in natura. Non uscirei mai dalla chiesa. Andrebbe d'accordo forse con Wiley Brooks, il bretariano. Già, giusto. Comunque i presbiteriani, detti anche Elviti, a buona ragione, cominciano le festività per la nascita di Elvis l'8 dicembre, proprio come giorno dell'Immacolata Concezione, sì, che è anche la data dell'assassinio di uno dei 13 discepoli di Elvis, John Lennon, autore della sigla della nostra trasmissione, sì, tra l'altro. Quella è la cosa più notevole che abbia fatto, cioè, nella sua vita. Non scherziamo, per favore. Secondo loro, tre musicisti blues visitarono il neonato Elvis e gli offrirono doni. Furry gli donò un gallone di vino da tavola. John Lee, probabilmente John Lee Hooker, pillole di vari colori. Chissà che pillole. Meglio non e saperlo. Robert Johnson, una scatola di lardo. Quindi oro, incenso e mirra. Insomma. Praticamente sì. Ancora pochi anni fa si parlava in alcuni articoli della petizione da parte dei fedeli per far riconoscere il culto di Elvis al congresso americano, proprio come è avvenuto per la fede Jedi in Inghilterra e come è avvenuto per il copimismo in Svezia. Certo, certo. Però c'è un'altra versione della storia, no, di questa natività, diciamo, pubblicata nel 95 dal musicologo Louis Ludwig nel libro Il Vangelo di Elvis. Apocrifo, però. Quindi. Ma non so se è difficile un po' capire la questione. Comunque, acquistabile online per $12. E secondo Tony Kornheiser, giornalista del Washington Post, se Elvis è davvero ancora vivo, questo lo farà crepare, cioè il libro Il Vangelo di Elvis. Secondo questa versione, il re fu preceduto da tre profeti: Brother, cioè Buddy Holly, Luke, cioè Hank Williams, e Duck, cioè Chuck Berry. Il serpente ingannatore è il colonnello Tom Parker, che è appunto il famosissimo amministratore di Elvis. Secondo molti fan, tra loro ci fu un rapporto travagliato che diede a Elvis molti problemi. Che ci vuole un serpente ingannatore, ci vuole sempre, in ogni religione, esatto. Ci interrompiamo con un po' di music. Sì, ci sono ancora tante cosette da dire. C'è ancora un po' di cose sulla Church of Elvis. Continueremo dopo uno stacco, sì, musicale. Allora, ci sentiamo un pezzo dei Tenacious D, che fa parte anche della colonna sonora del loro film. Sì. Rieccoci a parlare della First Presbyterian Church of Elvis, esatto, delle chiese di Elvis in generale. Dunque, che altre puntata rock. Eh sì. L'inventore del rock and roll, Elvis. No, non più o meno, ma insomma. No, prima è venuto The Brother, Buddy Holly. Giusto. Va bene, dunque, altri episodi concernenti la chiesa di Elvis. E, ad esempio, avvistamenti di Elvis, appunto. Elvis non è morto, quindi può essere avvistato. Per esempio, ci sono state delle statue di Elvis che avrebbero addirittura pianto sangue e parlato, e sedute spiritiche in cui i partecipanti avrebbero comunicato con lo spirito di Elvis, contraddicendo l'idea che sia ancora vivo in carne e ossa. Questa è una prova contraria, dunque. Certo, sì. lo contraddice, sì, infatti. Sì. Forse pubblicheremo un esempio di questa seduta spiritica, ho trovato il testo. Perché no? C'è anche la versione parlata, proprio? No, soltanto peccato, il testo. La reciteremo noi. Faremo una registrazione, la voce di Elvis. Sì, facile. E inoltre, dunque, nel 96 si diffuse la notizia, riportata anche dalla CNN, che nello stato indiano di Karnataka un tempio indù mostrerebbe, o comunque mostrava al tempo, un'icona di Elvis tra le varie altre divinità. Secondo l'India Today, i fedeli vengono ad adorare Elvis proprio come fanno per le altre divinità. Il tempio è gestito da un signore che nel 1995 pubblicò un libello a nome di Elvis Presley dal titolo «Perché mia figlia ha sposato Michael Jackson?». No, non è una domanda in realtà. Perché mia figlia ha sposato Michael Jackson? In Portland, Oregon, c'è inoltre una sorta di tempio-negozio del kitsch e degli anni 70, nato come vero e proprio tempio di Elvis, e ora un po' degenerato, in cui una sacerdotessa del culto può celebrare anche matrimoni legalmente riconosciuti. La 24-Hour Church of Elvis, una delle più importanti, direi. Sì, probabilmente l'unica in cui si possa fare ciò. Esatto. Comunque, peraltro, proprio a Portland, Oregon, si diffuse nel 1996 la voce della fondazione di una chiesa di Kurt Cobain. Altro personaggio molto controverso e scomparso prematuramente. Il reverendo Jim Dillon dichiarò all'Oregonian di invitare i propri parrocchiani a combattere l'abuso di droga e le tendenze suicide, possibile di tenere sermoni basati sui pezzi di Nirvana. Ad esempio, secondo Dylan, Rape Me parlava in realtà di amore fraterno, e noi l'abbiamo, l'abbiamo ascoltato e di verificare, esatto. Voi. L'articolo si rivelò poi uno scherzo basato sull'offerta da parte di una radio locale di un premio a chi fosse riuscito a far pubblicare un articolo falso all'Oregonia. Vogliamo decliniamo, farlo anche noi? Decliniamo la responsabilità. Cioè, sì, potremmo farlo anche noi. Potremmo fare una, però, una cosa avendolo annunciato, forse non funziona più. Ma scherzo, tanto... Vabbè. Bene, comunque al di là insomma di scherzi, frizzi e lazzi, il fenomeno ha degli aspetti di cui tener conto seriamente. Ad esempio, il pellegrinaggio fu chiamato così dai giornali, Priestly Pilgrimage, in cui nella vigilia della notte, diciamo, precedente il 16 agosto, cioè il giorno della morte, l'anniversario della morte, il 25esimo anno, quindi nel 2002, decine di migliaia di persone si affollarono a Graceland, appunto, e ne parlarono agli intervistatori, i giornali, eccetera, in toni parareligiosi. Elvis fu mostrato in icone simili a santini, anche in trittici con Gesù e Madre Teresa. E Bob Dylan, per esempio, dichiarò che Elvis è la suprema divinità della religione del rock come and roll. L'abbiamo già detto tempi. Anche noi. Esatto. E, comunque, oltre a questo, c'è da dire che Norman Girardot, esperto di taoismo e professore di religioni comparate per la Lehigh University, dopo l'incidente di Bethlehem, che abbiamo, quando affissero i 31 comandamenti sulla Packer Chapel, tenne un corso intitolato Gesù, Buddha, Confucio ed Elvis, in cui stimolò gli studenti a riflettere su ciò che il fenomeno ci rivela delle dinamiche religiose. Essenzialmente, secondo Girardot, le religioni partono dall'esigenza di soddisfare un bisogno di senso e ordine nelle avversità e nell'apparente caos della vita, e al loro inizio sono sempre contromovimenti rispetto alle prevalenti culture, che di solito le rifiutano o ne fanno oggetto di scherno. Il culto di Elvis fa emergere l'aspetto umoristico della religione. Il comico e la religione, afferma, sono vicini in molti modi. Entrambi affrontano l'oscurità, le inconsistenze e le ambiguità della vita, e di fronte a questi fenomeni abbiamo solo due scappatoie: o ridere di essi o dire che abbiamo trovato la salvezza. O fare entrambe le cose. O fare entrambe le cose. Trovare la salvezza fa venire il sorriso sulle labbra, secondo me. Sì, in un certo senso sì. E anche il riso può essere una salvezza. E quindi come si fa a filiarsi alla chiesa di Elvis? Ma non c'è un modo. Devi ascoltare i suoi dischi. Devi ascoltare i suoi dischi, devi ascoltare Don Bickle, che è il dio del rock and roll. Esatto. Prego Federico di far partire già il pezzo in sottofondo. È un pezzo un po' lungo, quindi lo sentiamo già. Non è Elvis, giusto? Non è Elvis, no. Non c'entra niente con Elvis. No, su Elvis vorrei dire che altre informazioni le pubblicheremo, qualcos'altro appunto sul blog, insieme al testo della seduta e eventualmente alla nostra registrazione. Sì? No, invece questo pezzo qui è un pezzo, secondo me, straordinario, giudicherete voi, cari amici ascoltatori, dei Broken Social Scene, che sono un collettivo di 19 musicisti, tra cui varie cantanti e cantanti maschili. Questo è un pezzo che fu prima scritto in una con un altro arrangiamento più elettronico, con voce maschile. Poi è apparso in un album di questa cantante solista, Leslie Fest, e questa versione diversa è apparsa poi nell'album Beehives del 2004. E Beehives? Beehives. Okay. Alveari, giusto? Alveari, l'album è questo, sì, e ce lo ascoltiamo. Tied to a night they never met. Eccoci ancora qua, amici di Radio Cage. Eccoci, siamo in chiusura, rubiamo 5 minuti a Dietro l'Angolo, che andrà in onda dopo di noi, perché siamo partiti con un po' di ritardo, però. Questo era l'overspit dei Broken Social Scene. E diamo un paio di segnalazioni prima di salutare. Sì, allora dunque, ogni prima e terza domenica del mese, da 22 gennaio 2012 alle ore 16, ad Odalengo Piccolo, in via Pessine 14, ci saranno degli incontri di approfondimento, confronto e riflessione spirituale attraverso la lettura e il commento dei testi sacri e gli insegnamenti dei maestri d'Oriente e Occidente, con Carlo Dorofatti, istruttore di meditazione, libero ricercatore, scrittore e presidente dell'Accademia per l'applicazione consapevole dei saperi. Il programma generale degli incontri è questo: personaggi, Krishnamurti, Gurdjieff, Aurobindo, Osho e altri. Testi, Bhagavad Gita, Rigpa, alcuni Upanishad, Tao Te King, alcuni Vangeli gnostici, alcuni classici della filosofia greca, testi ermetici e altri. Poi si parlerà di cosmogonie e realtà multidimensionali, del corpo come veicolo e manifestazione della coscienza, la struttura ed evoluzione dell'anima umana, reincarnazione e il sé divino, inoltre magia, il rito, il sogno e l'estasi, e infine il percorso endoterico. Quindi vi ricordiamo, Audalengo Piccolo, provincia di Alessandria, via Pessine 14, ingresso libero. Quindi molto se, volete, se siete in zona e volete fare un salto, davvero è una bella idea. Io ci andrei se potessi, se fossi in zona. Ecco, invece dal fronte UAR, cioè Unione degli Atei Agnostici Razionalisti, qui a Livorno sabato 21, quindi questo sabato dalle 11 alle 18 in Piazza Grande, ci sarà un evento molto importante, convergeranno tutti i circoli toscani per una manifestazione informativa. Ciascun circolo avrà affidato una tematica e naturalmente un tavolo. Quindi passate a trovarci, l'evento ha ottenuto il patrocinio del Comune di Livorno, ci sarà la SOCREM, la Società della, per la Cremazione, e noi in particolare di Livorno, ci sarò anch'io la mattina, parleremo di testamento biologico e assistenza morale non confessionale, ma ci saranno argomenti come la morale laica, la scuola e vari altri. E invece martedì 24 gennaio comincia una serie di incontri a titolo Caffè della Laicità, dedicati alla storia e teoria della non credenza, con relatori di altissimo livello, a ingresso libero e gratuito, e a partire dalle ore 21 presso l'ex cinema Aurora, viale Ippolito Nievo 28, ovviamente qui a Livorno. Il primo incontro di martedì appunto è quello con Sonia Giusti, professoressa di antropologia per l'Università di Cassino, la religione come prodotto storico. Permettimi un'ultima cosa. Prego. Visto che parliamo di cose sacre, certo. L'acqua è sacra, e quindi vi invito tutti a andare sul sito www.acquabenecomune.org e firmare la petizione che cerca di impedire che il risultato del referendum, che ha sancito che l'acqua deve rimanere pubblica, sia sovvertito da questo governo. Benissimo, concordo vivamente. A questo punto ci abbiamo verso i saluti, ricordiamo i contatti. Ricordiamo i contatti: testacrocesshow@gmail.com, lo Skype testacrocesshow e il blog testacrocesceshow.blogspot.com. Seguitelo, in quale da domani compariranno esatto, i podcast, notizie ancora sulla chiesa di Elvis. Mi raccomando, rispondete alla domande per partecipare al concorso. Naturalmente. Ricordiamo le domande brevemente: chi è il diavolo? E lui, la domanda qual di è oggi. Il potere oggi è qual è il potere più duraturo al mondo? Infatti. Sì, chiedo scusa per la confusione. Ci salutiamo con John Lennon. Ringraziamo Fede, uno dei discepoli di Elvis, secondo alcune secondo alcune fonti, sì. E dopo di noi, dietro l'angolo, mi raccomando, non chiudete il browser. Ciao a tutti. Ciao a tutti.